cosa veloce, ti devi 140 che... Che mi paghi l'automobile, dove si accade, ho detto guarda che siamo andati in queste condizioni, detto, e siamo andati, devo salire, che siamo messi male, tutti e due. Insomma, non hai dato, dai. Qua ce l'ho, no, che non senti che ce l'ho, sono usato il 140, aspetta, te la faccio sentire, con lo... con Salenza, aspetta che tu, aspetta. Ho detto, non l'hai dato. No, non l'ho dato. Aspetta. Lo faccio sentire. Se non mi prendo la testa. Ciao, Cla. Ciao. Grazie di avermi. Devo guardare la bocca, che la guarda nei 2 mesi se la vende, ragazzi. Adesso già non dopo mi dura nessuno. Io non l'ho assillato il 100, non sono io, te lo sai. Ecco, questo è il 140, lo vedi? Sì, io lo vedo, già lo vedo. Ma mi è venuto l'orecchio che lo stai prendendo. Oh, allora, l'avevo messo su Facebook. In pratica, un giorno l'ho messo su Facebook, dato che c'era un 680, gli ho detto giraggetto. Dato che quello era 240, ecco, questo è, mi piglio 80, invece poi quello sarà fatto subito fuori in 24 ore e quindi sono rimasto fregato. A un certo punto c'ho sempre però questo, non è che me lo sono mangiato, poi vabbè ho fatto, ho visto un 3009, l'ho dirata a Giovanna e ce l'ha giù a casa, infatti Giovanna c'ha il 3009 con il 4000, è stato, se vedi, basta che passi, vedi l'antenna del terrazzino. No. Sì, ma la differenza non c'è tra 140 e 180, non c'è una differenza. Uno c'è la scheda di simmetri, l'altro no. Però io sono perfettamente uguali, sia internamente che esternamente. Ma io compreso questi giambi freddi, uno può dire mi prendo un 140 e mi prendo un 430. Allora è diverso, ma se fai la 140 e 180, non io compreso la differenza. Vabbè. Aspetta che conto, mi sta ascoltando, ce la fai. Ciao Tonino, ciao Antonetto. Vabbè, novità non ne hai per me, qua. No, ma c'ho, nulla. Per il momento niente, non mi hanno offerto niente. C'era quella cosa là, però sono arrivato in ritardo, ma vediamo. Qualcosa sempre che mi offrono. Io una persona stamattina le ho offerto 500 euro subito, mi raggi bugata a Busciacca, Ramire, voi, no, non me l'ha dato, non usava. Qua, quella persona là? Sì, 80. Ah, e quelle sono arrivato a prendere 80 e 140, le altre, a meno che non prendi un semidigitale come un 450, ma il 440 stanno allo sfascio, stanno creando troppi problemi, anche quello che ho dato io qualche anno fa, mi ero telefonato l'altro giorno con un amico e mi ha detto lo sai che mi ha fatto quel problema, lo so, campi di un'altra slampata, un altro 440, purtroppo è così, non c'è niente da fare, li compri, ottimi, belli, funzionanti, la vuoi un anno, 2 anni e ti dà garantiti, e ci vogliono 200 euro e non so, cazzo. Vabbè, ciao Tonino, ciao Antonello, baci e abbracci a tutti, dai, che me ne faccio in work life, ciao ragazzi. Ok, Cla, da caso hai qualche novità, fammelo sapere, ciao. Senz'altro Tonino, l'ho letto, se ho qualche novità bella, buona, come quella che ha fatto Garvino, te lo faccio sapere, ciao. Ah, comunque in quel 100, in 180 c'era il MC60, c'era per 240 euro, si poteva anche prendere al volo, poi io dovevo far culo, non ci ho soldi subito, se no l'avrei preso, uno l'avrei tolto io e l'altro l'avrei dato a Giovanna. Ehi Antonè, i soldi sono tuoi e la radio è la tua, puoi fare quello che vuoi, però se vai a comprare magari una cosa che non è funzionante come quella è funzionante, è buona, e te l'ho fatta vedere solo per quello. Io ti tiro addirittura, sono andato sempre a 140, che mi hanno pigliato del ruolo, perciò. E poi anche a chi l'ha dato l'altra volta lo stesso l'ho fatto fuori perché aveva problemi di liquidità. Va bene, dai, ci sentiamo ragazzi, statemi bene, ciao. Ok, ciao Cla. Ciao. Ciao Cla, è capitato anche a me. E poi è arrivato il fuori a casa dell'Atari. E infatti a 485 e giovedì, boh, frega tutto, no. Infatti ho lasciato prendere, se no avevo già i soldi già pronti più o meno per prendermi quell'apparecchio là. Ma la venerata Giovanna più che altro, capito? Io mi sarei tenuto 680 140 mila venerata Giovanna. Poi Giovanna ha avuto culo e abbiamo visto questo 3.990 euro, abbiamo preso il volo, l'ho piazzato, è perfetto, è arrivato dopo due giorni di un rematore e ce l'ha piazzato a casa, ce l'ha piazzato. Andrà bene bene, ok, ciao Cla, buon proseguimento con tutto. Ciao, ciao Antonio, ciao Antonio, ci sentiamo alle prossime, state ben bene, buon proseguo. Ok, d'accordo, ciao Cla. E beh, ma quella persona che ti assillava non te l'ha comprato Antonio? Ah? Un poco. Chi è che mi chiama? Mia bicicletta. Ma poco, poco mottuto. Ciao Luca, è ballato. La cattere. E me come va? Mi sa appena rientrato, da. Ciao Antonio, Antonio Cavattappi. Ciao Lucchetto. Tu eri stanco, stavo tagliando l'erba, sono diventato buffo, sono la scrappi. Legamolo stesso, oh, yeah, vabbè, da. Te siete a lavorare, interessante lavorare, riprendi un attimo e arrivo subito, riprendo. Ma quanto ti prendi tu a ora a tagliare l'erba? 10 euro, ma lo metto tutto lui. Ascolta, ti metto tutto io. Vuoi tagliare un po' di erba da me? Non ho capito. Ti ho detto, ti metto tutto io. Vuoi tagliare un po' di erba da me? Ma tu lì, lui viene a prendermi anche, portami, cioè viene a prendermi. Mi vado io a casa sua, scendo in macchina sua, e poi a casa sua, e poi me ne salgo per i fatti miei. Ma io vengo, ti prendo, ti porto qua, tagli l'erba che c'ho io, e se fai un'ora io ti pago 2 ore, va bene? Non bene hai. No, non è molto, però ti sto dicendo, se ci metto un letto io ti pago 2 ore. Tu si può organizzare, sì, c'è problema. Perché ti giuro, non ne ho voglia. Ho c'è spogliatore nuovo, c'è la miscela, c'è il filo, c'è tutto quanto. Ieri ho finito questa porta con un carico amico, tutta levigata, faccio mangiare di più l'altro che è per carità. Niente, l'ho fatto la porta che è rimasto contentissimo, bellissima proprio. E altri lavori ho fatto, giardinaggio, stesso tempo fa, cancelletto, tante cose belle, però ti giuro, in casa mia non ci fa nulla. Bicicletta. Mi ha chiamato, va. Ma è vero che sei diventato cuocuomane? Ehi, a poi tu lo sai. Dai, ripeto un attimino che ne sono stata buttata, e vado a mettermi le buttate. Ciao Tony. Ciao Natali. Comunque Luca, me lo dici, quando sei disponibile io vengo a pegliarti. Non domani, perché domani sono in troppi casinato, ho troppe cose da fare. No, tu riesco anche... Sì, ma che per la prossima settimana, perché questa settimana domani vado a fare un'altra mezza giornata. E poi devo fare delle commissioni a mia madre per quanto riguarda... come si chiama? La rinnovo del... vabbè dai, cosa per la pensione, c'è l'80%, ma lì rispetto al 100%, poi per fare delle domande per quanto riguarda l'accompagnamento e quant'altro. Il capo tranquillo, devi fare cosa, giustamente, ok. Anch'io domani devo fare cosa, ad esempio, ok, non c'è problema, Luca, per un'altra settimana, ok, non c'è problema. Tu mi dici, quando è io vengo, ti prendo, ti porto qua, c'è tutto. Bene, meda, così almeno, io a casa mia non riesco a fare nulla, non lo so, quando arrivo a casa mi zigocco, stanco perché faccio una parte all'altra e poi casa mia trasburga. Questa ermetta sta crescendo anche troppo e mi ha rotto le palle. Hai detto magari hai travagliato, capito? Vabbè, poi ci sono quelli che rimane male, ti pagano male, e ce lo puoi fare per quel prezzo, no, fattino. Luca, con me tu non devi avere problemi, perché io qualcosa in più te la do, non c'è problema. Capito? Anche 30, non me ne frega niente, di 3 ore, fregate. No, lo stai dicendo un attimo, ma c'è gente che se ne approfitta, capito? Vabbè, dai, riprendi. Che c'era? Pomponi e poi. Ah, Natalio, riprendi tu, dai. Aspetta, scusa, Tony, adesso non volevo farvi fare i fatti tuoi. Ma cosa ti costa andare da macellaio, ti pigli 3 pecore, cazzo. Te li metti lì e ti risparmi i soldi, scusa. Li metti lì a pascolare e dopo di 2 giorni ti tolta tutta l'erba. Ti dai solo da mangiare e poi ti prendi il latte e ti prendi. E li ammazzi le pecore. Cioè praticamente l'amico lo devo lagare senza di là. Ah, dimmi tu Luca. Ecco, ti prendi tre pecore, ne metti a mangiare l'erba, scusa, con quell'erba lì ti fai il latte la mattina, latte caldo, dopodiché una volta che finito che non te ne hai l'erba, prendi, ammazzi le pecore e te le vendi. Non ti conviene. Ma dimmi tu se so cosa fa. Aio. Io voglio ho il piacere di chiamare Luca, che dato, ho sentito che stava tenendo l'erba, ma ce n'è poco da fare, comunque non c'è problema, io gliela pago anche 2-3 ore, se ci mette anche un'ora, anche mezz'ora, non me la futti nulla, capito? Ho il piacere di dare qualcosa a lui e farmelo lui, perché io in casa mia non me l'avrei fatto io, non la giugana, ne ho fatto anche troppo fuori, mi hanno bagato e anzi ho detto fai tu, e sono stato troppo bene, la verità, io non l'ho detto tutta ora assolutamente. Ho detto fai tu e sono stato troppo bene, la verità. Luca, ripeto, faccio io e lui sta bene, tutto qua. Ma che tu mi venga a dire, per dire pecora, chiede che dà, ma lui è migliato, faccio il micro di nuovo, è lui, Ehi, ha ragione Antonello, ti mangi ragnoni, ti tagliano i reba, ti pigli i ratti, guardi su tutto. E così pure, padrone in casa mi si chiude pure, pure i bigoli. Poi mi pongo anche per due buchi, no? Gira, se ne abbiamo al vorro. Toni! Eglia! Hai che fare, non ti interessa più. Cosa? Cosa fare, non ti interessa più. Purtroppo no, è successo che ho comprato tutto. Va bene, no, stavo sempre aspettando. Io l'avevo messo anche da parte, sono andato a fuori indietro prima, no, non è importante. Non fa niente, Tony, è uguale, non c'è problema. Ciao a tutti comunque, dai, mi sto ascoltando, riprendete pure, riprendi Tony, io ascolto e basta perché ho da fare qua. Ok, mi ci fanno le orecchie del porco a mi ascoltare Giulio, comunque ciao per sentito. Ok, infatti non ti ho fatto neanche andare lì, poi è successo quello che è successo e insomma praticamente non ti ho chiamato perché il motivo è tanto, cosa chiamo a fare? Vabbè, comunque. Andrà bene, non ti ho fatto andare a piedi col tubo in mano. Ok, buon pugno, avanti. Qua sono. Adesso guarda, tra un po' io e Giovanna abbiamo dei cintani alla campagna, ci mettiamo 4-5 pecore, tagliare l'erba, hai capito? Poi magari, per quello già mi metto la casetta, la mia, non sai, magari qualcuno senta l'odore delle pecore e mi frega gli agnelli, cazzo, perché mi prendo pecore incinta per sicurezza, a me non ho gli agnelli per Natale. Ma Giovanna non sto sempre lavorando là, Antone. Giovanna, in Giovanna già un giorno che è in pensione. Tu sorella sto parlando me. In pensione. In pensione. Vieni così qui c'hai. Ma. Tu dicendo che è in pensione? Secondo te scusa? E cosa? È tutti i giorni a casa, c'è andata la baracchina piazzata, le ho comprato il baracchino io. Se guardi c'è l'antenna della baracchina, avete l'azzino, c'è la magnetica, la tubo 2001, quella rossa. Io vado in pensione, quindi ormai non ne frega più niente di andare a lavorare. Cosa gli deve far fare andare a lavorare? Senti, la sua pensione è a posto. Non c'ha 66-67 anni. Non c'è niente, non c'è da tutto niente. In pensione, te lo sto dicendo, non sta più lavorando gli appizzicotto, non è che è stata licenziata, non sta più lavorando, proprio non ne frega più niente, è nata in pensione, sta bene, si ritira i soldi suoi ogni mese, più c'è quindi dei figli, eccetera, eccetera, sta benissimo, sta meglio di me, guarda. Sto bene, in pensione, sono già 2 anni, quindi non ho problemi di niente. Anda bene. Tatalino! Ce l'ho detto! Come te? Sono Margherita, mi sentite? Avanti, ti sentiamo, ti sentiamo. Cosa vuol dire? Dì che ci piaci. Ma chi è tu? Io sono pasta al forno, poi c'è l'altro, si chiama zuppa di pesce. Ascolta, la pasta al forno sono io. Allora io sono zuppa di pesce. Ok, da dove parlate? quando noi parliamo da Sassari, siamo io a Pizzicotto, lui, tu dove sei, mi sembra, al ristorante che c'è giù a Codottore, come si chiama? L'era del cinghiale bianco. Ma c'è cinghiale bianco. Luca, c'è ancora. Luca. Margherita, voi non l'ho preso. A me lo chiedi. Ho detto, io sono a Pizzicotto, l'amico invece parla da della Cinghiale Bianco a Porto Torres, hai capito? E lui sì, fa la pasta al forno, e io invece faccio il pesce. Margherita, sono... Alicia. Ah, lei si chiama Margherita, Tony, hai sentito? Andà bene, comunque ci aveva sentito per la premiera, tutto qua. Andà bene, e vabbè, comunque, basta al forno stasera, già me la mangio io, che è buona. Ma non volete parlare con me perché sono una donna? Come? Ma non volete parlare con me perché sono una donna? Troppo forte arriva qua. Ha detto se lo vuoi parlare con lei perché lei è la donna. No, ci mancherebbe. Noi parliamo con tutti, maschi, donne, di tutto e di più. Come vedono le donne, caspita, già solo un anno se sentire le donne in frequenza, fa piacere, capito? Chi è che è il tuo fratellone? Ma tu sei Paolo, il tuo falcone! Cosa? Certo che sei falcone. Falcone! Avete parlato in due. Tu che sei falcone? No, su. Falcone è il fratello di Antonello. Ma poi questo posto lì, non so, non c'è cata a me, no, c'è cata a te. No, no, Falcone si mangia il brodino di marmo. Natalino, intervieni. Chi è di quei due Paolo e Don Falcone? Antonio, siete a Cingomino. Non siete a Cingomino. Devi metterci l'antenna a casa sopra all'albero. Di salire sopra all'albero e parlare con portatile. Manuè, io ho una soluzione bella per te. Ma quando te parla una donna, siete maleducati, siete, boh. Perché me lo dico? Non abbiamo parlato male. È a Pomponio. A Pomponio è maleducato, cazzo, boh. Vedi, di dì parolacce, Margherita, va, dì di parolacce. Pomponio. È qua qua, è buon buon buon buon. Ma che io palmaccio non ho detto mi? Mi hai detto che era Falcone, scusa. No, tu gli hai chiesto chi sei, tu hai detto che sto parlando da Pizzicotto. Secondo te, Pizzicotto, no? io faccio il pesce e invece Antonio ha detto che lui fa la pasta al forno, secondo te, ma è un cazzo so. No, ho capito niente, il pesce c'è pure io il pesce, c'è per quello, non c'è solo uno. Allora, stavamo parlando, Antonio dice che stava facendo la pasta al forno, hai capito? Ed è lì a Porto Torres, nella pizzeria. Io invece sono a Pizzicotto e sto mangiando pesce, sono in pratica, cioè faccio pesce me, non è che faccio altro. Antonio, ho detto che io ho fatto la pasta al forno, cosa Antonio e Porto Torres, cioè dai un po' di pizzeria. Un po', ma ci sei drogato stasera, mi sei un po' drogato, cosa ti hai fatto? Un chilo di coca, non lo so, boh. Capito nulla neanche tu, allora non ci siamo capiti tutti e tre. Allora, io e Tonino stavamo parlando e in pratica Tonino ha detto che era il ristorante a Porto Torres, hai capito? Tutto lì, io ho detto io sono a Pizzicotto. Io non ho nominato che ero il ristorante a Porto Torres. Antonino, tu sei ubriaco. Senta bene, infatti, a bene. Ho detto che in pratica tu vivi a Porto Torres, esattezza. Io ho la Pizzicotto di punti, perché tu mi hai detto no, io non sono di punti, sono. Allora ho detto, io sono di punti. Allora ho detto, infatti ho detto pure, Tonino è a Porto Torres. Che sta mangiando la pasta al forno, cioè non è che sta mangiando la pasta al forno, lui è pasta al forno, io invece sono pesce. Ma io ho detto soltanto che ho fatto la pasta al forno, non è che era proprio d'ora, né a Ributti né a Gabuppi. su? Vabbè, già mi hai capito, stavo parlando di quello, non ho parlato male, non ho detto, ma qua ce l'ho detto nient'altro, quindi non mi devi accusare di cose che non ho detto, grazie a Dio. Non mi permetto per niente di parlare male a una ragazza. Stavamo scherzando e tutto si finisce, poi boh, non lo so, mi state pigliando per i fondini e il discorso di resto, cioè, io li accetto, scherzi, non è che non li accetto. Come è entrata l'amica, io ho capito subito che era a casa di Luca. Quando stava parlando, hai capito? Poi a parte mi ha detto Falcone, io avevo capito che era Falcone la prima volta, no? Un'altra cosa. Ho detto, tanto ce l'ha con te, attento Nino a te, mi sta dicendo, ce l'ha con te, tu hai detto no, Falcone, eccetera, eccetera. Ma Cinco, vabbè così basso, siamo noi. Tu arrivi più forte, cosa hai fatto? Sei basso. Beh, mettila meglio l'antenna, la puoi mettere meglio. No, ma no, proprio ci mette a guardare, pensate a con tre qua, rifi. No, qua è nuovo, sempre buono, Luca. C'è molto QRM, quello sì. Io gli avevo detto di mettersi sopra l'albero addirittura, perché qua non arriva niente. Figurati tu. Prima arrivava una volta Manuela, adesso non arriva più, non ho capito perché. Manuela, c'è un bel sistema, un bel pallone gonfiato a elio, metti l'antenna, la fai salire e così quando sei in alto moduli, poi quando non hai più voglia scendi giù con la cordicella e il pallone e sei a posto. E lo gonfi il pallone. Beh Manuela, ti sento. Sì, tu Manuela. Tu sicuramente mi ascolti bene, penso, adesso Manuele. Santiago Tremolo sta arrivando qua. Vai, volete lì, date più favorevole, capito? Vabbè, la pomponi o no? Lo sento comunque, ma insomma lo sento, ma se si arriva poco a poco il QRM non lo sento più. E mi ricordo io arrivava più forte prima, tipo 5, 6, 7, adesso non mi ricordo, vabbè. A me sta arrivando come sempre, 9,5. Quando è basso io dico mi sta lasciando basso attorno, Manuele. Adesso è l'ultimo. Ma a me chissà che poi del QRM è quello è vero, Ah, tu dici, a me arrivava prima me. Io me lo ricordo, arrivava a Santiago 9, già te lo ricordi anche tu, non è che non me lo ricordo neanche io. Quindi si è passato un bel, adesso non ho capito da dove stai parlando. Prima usavo l'antenna vicino all'albero, poi nel terrazzino, poi sopra il tetto, adesso non arriva più. Se farà. E dai, tutto schiacciato a Manuele. Lui c'ha l'antenna attaccata al frigorifero e boh, dentro casa, non lo può mettere sul tetto. Quel tetto è un tetto tutto quanto particolare. E se ci vuole l'elicottero per attaccare l'antenna su, capitura. Capito? Vabbè, ma prima era su pallabro l'antenna, io già c'è salito su pallabro già. Non mi direi no. Torino, è attaccato lo stenditoio, c'è lo stenditoio, attaccali fuori dal terrazzo, adesso lo stesso. Ma lui non vuole far vedere che c'è l'antenna, sono avvicinato alle rope, ma lui ci capito. Lui vuole pace, tranquillità, non vede niente nessuno, nessuno dice niente. Beh, si fa un tipolo, lo stenditoio, che diavolo lo vede il tipolo dello stenditoio, lo vede nessuno, amico. Non lo so. Antonella ha già fatto il tipolo, non arrivare manco a balla. Cosa vuol dire? Allora basta, io non so più cosa pensare, a un certo punto se non va bene una cosa non va bene l'altra, ma c'è l'anima sua, cosa vuol dire? Non ci posso fare nulla io, a me mi dispiace, l'ho sentito la verità, mi dispiace parecchio. Comunque, Luca, hai sentito Antonello cosa ha detto? Anziché chiamare a te, mettermi le pecore? Sì, non lo so, adesso lo dire. Adesso oggi si è fatto, ma che pena si è fatto. Ehi, la banana. Ehi, vabbè, guarda a te, ti ho fatto una banana. Questo è che ti hai fatto un carciofo. Ma cos'è la cicchita, Antonello? Cicchita, 10 all'ora, magari... La Tavino che fine ha fatto? Non lo so, mi sembra che abbia chiuso. Ma c'è un drogato, Tony, è un drogato quello Bombolio, quel Bombolio. Sì, lui, basta che... Odora un pochettino e già ubriaco. Sì, domani. Sto bene le pastiglie, tanto iaia. Non è vero, Pompugno è un ubriacone fragico. Mi tocchi. Hai visto che ci fa male Natalino, è barbato. Natalì ha detto che la notte le abbraccetto con Falcone. Ogni naso. Un tumbarone. E ci ha fatto il brodino di mamma. Antonio, ma proprio stai mangiando il brodino di mamma tu? per risparmiare, capito, perché la giunta Meloni non ci dà più soldi ormai, e quindi a settembre tutti lo dico di marmo. Ai, mamma mia, cara. E vabbè, è così, dunque. Io non vedo l'ora che arrivano le 8, ma mangiami la pasta al forno. Ecco, questo, siccome mi è rimasto, ho preso 3 pacchi di settimana avanti, adesso domani mi copro altre 2 teglie e praticamente ne faccio altre 2 e me le metto in freezer, me le preparo, quando è, ce l'ho già pronta. Ah, vabbè, ricordami Tony, quando vieni qualche giorno ti preparo la pasta al forno io, quella calda, io spingo, ti lascio, cosa ti posso dire, in quanto è il tempo vai a casa e ti metti mutando in acciaio. Non hai capito che io la pasta al forno la faccio io, non la copro già fatta come fai tu, che ti viene un fuso a lui e ti vai in nato. No, quelle cose vogliono, ci vuole attenzione, ci vuole, non bisogna comprarne già fatte. Io non l'ho mai fatta la pasta al forno, però dovendola fare mi compro la sfoglia, il sugo me lo faccio io, tutto mi bozzio, a chi non mi vido. Io ho fatto così, ho comprato quella precotta all'uovo, buonissima, e basta. Poi ho fatto il sugo sotto la Conad, ho preso il sugo Antonella, poi niente, mozzarella, poi la fondina, formaggio grattugiato, grana padano, il sugo con la carne macinata, tirò, che è uscito veramente buono, Natali. E io lo so fare bene il ragù, però per la pasta al forno vuole appena più liquido. Cappa, il mio è fatto liquido, prima un po' di sugo sotto nella teglia, poi il formaggio, poi con la pasta al forno, poi continui a lavorare, prosciutto cotto e via dicendo. Un bel mattone, mi sono solo 5 fila che ho fatto, capito? E buco magnum, casita, uia, magnum. E a me mi piace la macchina, non l'ho mai fatta a dormire, la verità, però mi piace la macchina da pasta al forno. La faceva bene la moglie di mio cugino, cazzo, ma bella amprosa, mi prosciutto, fontina, a me fa di quasi la cosa tribunia, come si chiama, la besciamella, vivo. Io il suo quasi già fatto, ho messo fuori il besciamella, girato, leggermente chiaro, perfetto. Il resto, io mi ricordo tempo fa, sono andato in ristorante e ho preso la pasta al forno, già lo sai il ristorante cosa ti alzi, no? Dice, come secondo cosa porto? Mi porto la temperatura di pasta al forno, che è un bel buona, però non mi rivide macchine o pochi, però non mangio altro. Si è fatta bene scivona, la moglie di mio cugino lo cazzo, non te la faceva una ghisa la pasta al forno, ma che non sono tutti che la sanno fare. Io non per vantarmi lo faccio veramente buona, Natalia. Me l'ho fatto 2 figlie, una in freezer e una pronta per stasera. E anche diciamo, aspetta, avanza domani e senz'altro ci sarà buon domani. La scaldo un pochettino e via. E domani niente, pronto un altro carne macinata, un'altra besciamella, perché io non la conservo, ne è rimasta un bel po', ma l'ho buttata via perché non si guasta, capito? È molto delicata la besciamella. Adesso compro i cuori piccolini anziché grandi e poi faccio il sugo, la tortorella in bottiglia ce l'ho già, non mi manca niente. E quindi dirò che domani me ne voglio fare altre 2, perché sennò quella pasta sfoglia, quella già precotta, pasta fresca all'uovo, mi succede che mi si guasta, è molto delicata anche quella. Allora, entro domani io riesco a farla e la faccio, perché se aspetto dopo domani devo buttarla via e mi dispiace. No, l'ho fatta subito, è una volta che è fatta subito in freezer. Così ero manco, quando ti sei, virai, tira in forri e sei a dama. Cappa, ho messo quel coperchio che c'è in dotazione insieme alle teglie. Anda bene, Luca, ci sei, riprendi. Luca, impegnato, buon Pozzi. Sì, via, c'ho il microfono in mano, sto prendendo la colla, cazzo, no? Così. Ma sono seguita niente con la tua spi. Sembra colla molla molla, sembra, non è con una accidenta. Capito Natali che c'ha il microfono in mano. Cos'è che c'ha in mano? Il microfono salenta in mano, sto prendendo la colla vecchia. Vecchia, sta tutto dire vecchia. L'ho presa dallo spi ma non sembra niente. Deve pedolata, credo, devo prendere, per saletta. Iuia. Oh, io, io, 70 giorni galluna. Ma, gira, gira. Mi ne prendi, vieni a cana, gira, gira, mi bonga la botta. Aspetta, domani, che domani la facciamo insieme. Sì, insieme. Ci devi partire a due, a due. Vabbè. Comunque da lì se le faccio poi chi le vuole io le vendo, già sono poco barato. Ogni te gli avvetiero. Gira via, la posta mi la vendo, che... le bancarelle si muni, mami. Avvio, non è mala idea, no? Yeah, in questa ricca, non lo possiamo fare purtroppo col cibo. Ui, ui, ui, per carità. Oh, vabbè. Ma comunque a me mi è uscita sempre buona la pasta fuori la fritta. C'è molti che mettono l'uovo sodo, a me non mi piace l'uovo sodo. No, vivo la besciamella, vivo ai misciani di sugo. Da poi vivo la fontina, il prosciutto cotto, cipolle e il rugaggio. E si andendi, ed esce una bomba, esce. Poi si è fatta a incostrati come ti sei sentito la vedaccia. Ehi, Natalia, ho messo anche la mozzarella. Avevo tre mozzarelle belle, quelle sarde, fatte a pezzi piccoli in mezzo, un gnabbiano. E in mezzo allora. Quando una cosa si scioglie tutta, tanto è buono. Qualche giorno mi metto la faccia a vedere come mi esce. Io cambio ogni tanto, oppure fare pasta asciutta, oppure zuppa, o dei farro, oppure pasta e fagioli, insomma, devo ciambare. Ho fatto la pasta al forno perché avevo una voglia di pasta al forno, e allora me la posso. E siccome ne ho comprato tre di quei pacchi per sfoglie all'uovo, e mi si piazzica, ne rimango un pacco e mezzo, no, domani compro già che dieci me ne posso. Dove l'hai comprata la sfoglia, quella all'uovo precotta? Quello l'ho preso all'Erosby, tre pacchi, era forse neanche cara. Un cappa. Quindi anche le teglie hai preso lì, tutto lì. Cappa la macinata, l'ho preso lì, la besciamella l'ho presa lì, e però il sugo non l'ho preso lì. Ho preso la panella che l'ho preso alla colata. Hai visto le più buone, la passata di pomodoro. Ah, poi lo sugo di rubare in due. Ero ma così sicuro cosa vai buccio. Mi ho fatto un bel tegame. Ho consumato quasi tutto, ho buttato via perché non le lascio domani. E già lavato tutto quanto, tutto pulito. E domani attacco di nuovo a farlo. No, io me la faccio io, non la compro già fatta, perché Antonio dice che l'ha comprata già fatta e l'ha fatta così, l'ha fatto male. No, io non mi fido. E è una cosa delicata, la besciamella è mia. Se vuole fatta e messa in freezer, se non la usi. Se no la inforni, ti la gozzi e ti la mangi. Io quando è pronta, adesso quella di freezer, eccetera, eccetera, un domani la songeo, metto in forno e vai, capito? Perché tu, le teglie che tu compri in alluminio, c'è anche il coperchio che è all'interno dell'alluminio e mette sopra la pasta al forno. Quando è fredda però, e lo metti in freezer. E ti dura 2-3 mesi, quanto ne vuoi, penso. Ma con me non dura assai. Vabbè che domani me ne posso anche due, sono più tranquillo. Prosciutto l'avevo comprato, prosciutto cotto, 30, fatto conto. Di fontina l'avevo già le confezioni già pronte. Avevo queste mozzarelle e ci ho messo anche le mozzarelle. Così è più buono. E infatti, hai battuto bene. La gusti, una busta che è fredda, la busta ti pone un cubacco innanzi e ti la pone in freezer. E tu sei un signore. Scappa. Antonello. Dimmi tutto, sono qua. Se tu non la sai fare e te la copri già fatta che ti ha fatto male, tu dimmelo a me, te la prendo io, 50 euro a te, dai, faccio lo sconto. Vai, cocca, ti vai. Sta lì, beh, siamo andati. No, no, no, per quello compro le pizze da giallo che sono uguali. Allora te le mangi, fa la cusi anche quelle. Ma tu vuoi mettere quella che faccio in casa io con quella che copri già fatta, no Antonelli, manco a paragone. Ma anch'io, una cosa già... vabbè, a me me la fa giocare la sedia, non chiedo, la passa fuori. Mi compro tutto e me la fa lì, non è quello il problema, ma... hai capito? A volte, quando sei di fretta e cose del genere, fare roba, per dire un cazzocco, oppure un lavoro fuori per lasciare Simona senza niente, e io devo lavorare fuori, già lo sai dove lavoro io, e quindi a un certo punto cosa faccio? Lascio Simona senza niente. Gli compro la roba e poi se la cucina lei, ma non di certo la passa al forno perché mi ha fatto male a me l'altra volta. Di quella non le prendo più dallo spirito, non pensavo che gli altri, la verità, gli altri che le sono erano buone, non è mai successo nulla, ma questa l'ultima è una cosa, magari è indisposto io, non lo so. Sono arrivato, sto dicendo, sono partito da casa, da qui, sono arrivato all'ascensore dove c'è il portone e se non mi muovo mi stavo cagando addosso. Comunque le cose sono due, o eri indisposto tu, oppure era andata, diciamo, con la passata, con tutto qua, è avanti Natalino. Sì, è stato trattato così, di strada. Ma non lo so, quindi figurati tu. Su Facebook perché a volte ci sono delle mille da un pacchio 123 c'è 23 canali AM e ci vede quanto ne vuole appena messo la con un geniale cosa che fai? Un detagie vendo, per collezionisti faccio un ufficiale come di cercare di AM, no? Ma questo lo sta vedendo solo di 23 canali, il mio non lo sta prendendo. È bello, lo prendo un po' fiammante, cazzo, questo mi ricorda gli anni di che furono, cioè. Ti porti un rumore forte appresso a mia Antonia. La pentola che c'è sotto, dell'alimentatore, non è niente. Adesso sono sceso anche di passo. L'alimentatore, cioè, la pentola che c'è sotto, non è niente. Non è niente, giù mai ti mangia la modulazione. Sì, esagerato, aspetta. Guarda, adesso senti di meno. E adesso di meno, gà. A me è più comprensibile, gà. Ma prima era un casino, gà. So di che non vale quanto mi vuole, aspetta. Yeah. Natali, ci sì. Luca, ci sì. di fronte alla questura, figurati. Vediamo che furono. Non ho capito, tenuto un passaggio, nel senso quando io abitavo vicino alla questura. Stavo il pace 123. Te lo ricordi? Calma. Ho detto, se ne vuole più di 30 euro so che ne conta. Se no, tutta per culo sta che cazzo, me l'ha potenza. Io sono un uomo, ero un uomo, ma io non rispetto 50 euro, 100 euro, se ne vuole 30 è bene, se no se lo può tenere. Io avevo il faccio 8030, 40 canale, poi ho avuto il paraggio Simpson, che era un ottimo baracchino a quei tempi. Ah, per Simpson, già me lo ricordo quello, sì. L'unica cosa, diciamo, del faccio 123 era quella che se ti mettevi le cuffie era una cosa allucinante. Sentivi questo stacco nelle orecchie che ti massacrava i dilemmi, in pratica, lo stacco nelle orecchie. Ti massacrava le orecchie e ti massacrava un po'. Incappa. Tutto sommato, dai. Io mi sento anche nelle cuffie qua parlando adesso. E vabbè, perché c'hai, come si chiama, la pallascolta, ma allora il pallascolta non c'era di là, in quegli apparecchi antichi. Lo sentivi lo scatto della rete, era una cosa allucinante, che ti sentiva là fuori, da dopo, mio padre mi diceva sempre cosa la notte quando parlava paracchino. Se sentiva anche se fossi in cuffie me, a parte la voce, lo sacco della re faceva tac, tac, ogni volta. E quindi mi aveva dato mio cugino, 120 mila lire avevo pagato con Gesso, me lo sai. Ci pensa, fregate, l'avevo preso, ma mio cugino, ho fatto parente. Vuoi parlare a baracchino? Se voglio. Te vuol dire, tu devi parlare con Sio Pomponio. Signora, allora, tu devi parlare con Sio Pomponio. Adoro Pompu. Pompu. Pomponio. Pomponio. Pompuzzi. Pompuzzi. Pompuku, io lo chiamo Pompuku. Perché è un porco, Adoro è il porco della frequenza. Capito, Margherita? Comunque ciao Margherita. Tonino. Buonasera a lei. Tonino. Tonino. Tonino. Tonino Kawasaki. Buonasera Tonino Kawasaki. Cavattappi. Lui è Cavattappi o Beppo? Un altro, mio zio mi chiamava un'altra cosa che non lo dico, dai, che è la sua sprocaccione. Ok. Pompuzzi! Dimmi, sono qua già. Ciao Margherita, mi sentite anche a te? Cosa vi dà Gesù, per carità? C'è di tutto di più su Facebook. A proposito, Luca! Sto pensando! Io ti devo dare anche un altro lavoretto qua nel giardinetto. Eia, già ci organizziamo, Tori. Ma molto lontano non c'è da San Camillo. San Camillo abita, dove abiti? Prima di San Camillo. Guarda, sono in bici, non ce la fa, sarete in ripio, non ce la fa. No, che mi puoi abitarti, non ti preoccupare, non c'è problema. Non c'è problema, Tori, ci organizziamo, si fa. No problem. E poi, come già stai bene, a parte che ti pago bene, poi ci facciamo una rosita. Ho provato, tu li paghi, so. Cos'è che hai detto, no? Dillo, cos'è stato? Non ho consumato, non me l'ho consumato, dai. Tanto, devo consumarmi, Tony, che sei un po' allia. Non consumarti, dai. Lavoriti leggeri, cioè, praticamente. Ho comprato dei pannini solari, con le fari. E siccome non c'ho il muro per mettere sul tavolo, stavo pensando di mettere lo scatolato, diciamo quadrato, e con fare dei buchi per terra con mezzo blocchetto e pieno di cemento e poi attaccarli lì, capito? Ne ho preso tre. Qualcosa può fare, se io elimino quelle lampade a basso consumo, cioè a LED che ho messo fuori, che voglio, non voglio consumare più corrente, anche se consuma poco voglio consumare di meno, ancora zero, perché con i pannelli solari non consumo niente. E lo voglio sistemare, li ho comprati, quindi li devo fare, sto inventando, pensando di cosa fare. Ehi, ora si fa tutto, non c'è problema. Disponete le visite a partire dal 23 marzo. Cos'è? Disponibilità e visite a partire dal 23 marzo 2023. Appartamento? Due camere da letto, una... Niente, si fa, dai. È stanchissimo. La schiena mi fa male. Ma come te mi dà fascia, cazzo, mi sono dimenticato, guarda. Io ho fatto tutto l'impianto qua sotto traccia, sottoterra, ho messo quei paletti di vetroresina a 60 cm con le mocce, ho fatto un bel lavoro, eppure altre due plafoniere sempre a LED sotto la veranda, però quello di, sono 5 sfere che ho messo fuori in giardinetto, divise giù ovviamente. E niente, voglio mettere questi fari che ho preso, sono da 100 watt l'uno, va bene dai. Sì, hai, non c'è problema. Adesso che io mi sdraio un po', la schiena. Ripeto un attimino, qui ci metto un po'. Mi sdraio perché cazzo va, vero? Manca muovimi, no? Adesso non me fermo. Certo che si lavora tutti i giorni, tanto quanto. Ma come così tu? Sono lavori ogni me, cioè ogni mese di mamma, di prova. E beh, quello è vero. Io sono 2 anni in pensione, fatto conto che quando ho usato il formicione per fare il giardino, per carità, la sera, mal di mani, vabbè, già mi è passato. Poi ho continuato a fare anche il cancello, eccetera. No, sono a posto comunque. Buon Pozzi. Purtroppo se non si lava il bigione si è morto. E cominciano le gambe, le mani, le braccia, eccetera eccetera, fare male, poi ti prendi influenza, come niente, come è successo a me, me l'ha fatto più di 20 giorni, prima Simona poi io, figurati, oggi mi sono ripreso io, e c'è Giovanna giù che è peggio di me, quindi vedi tu, è un casino adesso. Io dopo che faccio il giro li faccio a piedi, anche se c'è il vento, devo fare buttato a casa, guarda, faccio il giro, saluta la bella discesa, salita, dopo di che ceno e mi dormo stasera. E anche la giornata di oggi è fatta, vero Antonio? Non sto più uscendo, io sai, sono quasi un mese che non esco di casa. Sto uscendo solamente a fare la spesa, a fare la colazione al bar, a portarla a Simona, eccetera eccetera. Poi al limite mi bevo due birre, allora in casa non bevo nient'altro, perché sto bevendo. Ho eliminato tutto quanto eliminato, da quando mi hanno trovato quella specie di diabete, quello che ho dovuto eliminare di tutto, ho fatto di tutto di più ho mangiato, di verdura, tonno, uno schifo del genere, poi non riuscivo a mangiare la pasta, no? Adesso meno male, sto bene, sono tranquillo, posso uscire tranquillo, posso andare a bere una birra, non mi succede niente, non mi viene, come dire, che mi sento male, eccetera, eccetera. Sto veramente bene adesso, come una volta. L'unica cosa che devo fare è solo muovermi, non stare dentro casa, buttato, seduto nella sedia, perché se no si torna come prima, capito? Devo fare la passeggiata a piedi da qua fino a Adelante e poi risalgo. Tutti i giorni bisogna lo faccio così. È l'unico modo per poter togliere le impurità, capito? Del pranzo, eccetera, eccetera, di quello che mangiamo. Tu devi fare ginnastica, non bere più birra che ti gonfia la pancia. E certo le due birre fanno male, cazzo, da te. Una tanto la cena, è come bere il vino, c'è un sacco di gente che beve il vino, gli ho detto anche al medico quando sono uscito dal ghetto, ho detto mi fa i calcoli a me, io invece faccio i calcoli a lei. Ehi, quanto vino bevo a pranzo, gli ho detto. Dice, io un bicchiere. Ehi, ho detto, sì, molto, gli ho detto. Secondo me ne beve più di due, gli ho detto, perché gli ho detto a farmi domande, gli ho detto del genere, gli ho detto, non c'è in testa. Lei ha detto, me l'ho detto a sua collaboratrice, quindi lei ne beve due e mezzo a pranzo, due e mezzo a cena, e in casa mia detto, sono quasi un litro ne beve lei, e io ne bevo 66, gli ho detto, quindi 6 12 sono 1,20. Comunque, pranzando, cenando, qualche bicchiere di vino fa sempre bene, già lo sai, anche due, non di più, se no poi comincia da capo. E così è. Sì, ma il vino fa bene, l'hanno detto tutti, anche la birra fa bene, non è che non è che cioè, se ti te ne bevi una birra a pranzo, una birra a cena che stai pranzando, un discorso del genere, e cambia. Però se te ne bevi 5 o 6, come io si faceva una volta, che facevi per dire la verba, facevi un giro tu, un giro uno, un giro l'altro, cosa non c'era, a un certo punto non è più 66 centili, sono 4 litri, ma hai capito? Poi quando non stai facendo niente pesano, un conto se stai lavorando, cioè in pratica che ti bevi lo sudi, hai capito? Comunque, e mi ha schiacciato tutto a Manuele. Manuele! Ui. Comunque, Manuele, quella questione che tu mi hai dato la foto, ce l'ho io, è tutto a posto. E vabbè, ho preso la foto per... mi ha visto il mio, si è spaventato. Cazzo lì c'è, beh, davvero me. Allora, c'è buio, c'è. Adesso c'è la luce cortile. Mi guardo un po' Panovolonis, che mi fa zero di, e poi aspetto alle 8 a mandicares. E trullo lì, trullo là. Va bene, dai, signori, io vi saluto. Buon proseguo, ciao Antonello, ciao Manuele. Poi ciao Luca, che sei ancora all'ascolto, ciao anche Natalino, e eventuale ascoltone Giulio che deve essere in ascolto. Ciao a tutti, QRD da parte mia, ciao ciao. Ciao Tony, sì, stavo ascoltando ma sto lavorando, ciao ciao a tutti, ciao. Ciao Tony, alle prossime ci sentiamo. Ok, ciao ciao. Ciao Giulio, ciao anche a Luca, saluto a tutti e due. Break. Ah, ok, ma mi sa che non bevi nessuno. Ciao Gianni. Ciao a tutti, dai, non so chi ci sia, ma c'è già adesso. Allora, com'è? Buonasera. Cosa c'è di a me? No, non ce l'ho più, tutto a posto, grazie a Dio, tutto finito. E ora? Ovviamente non è una cosa che passa, se ce l'hai non passa. Allora non era, c'avevi la glicemia alta magari, ma non era diabete. E la glicemia alta, c'avevo, come si dice, la glicemia, quella... Vabbè, sto bene adesso, grazie a Dio. Ha controllato tutto, il medico ha detto, mi ha fatto i complimenti, era ora, mi ha detto che è in grado di bombezza. E così ho fatto. Ma fastidio ti ha dato? No, non mi ha dato niente, la verità. Ha detto, va, elimina la pizza, basta. Stavo mangiando tutti i giorni verdura, tonno, pesce, il pesce si va a pesta, quindi figurati tu. Quella lì ho fatto. Anche le uova non te lo fanno salire. Anche le uova non la fanno salire la glicemia, l'ho appurato io. Sì, ma le uova fanno bene però. La fanno salire appena la glicemia, però dopo in pratica fanno, quanto sembra fanno bene. Dopo le uova, hai capito? Però fai un pranzo, ho capito, lo mangi altro, una volta che stai mangiando un paio di uova, dopodiché stai bene, non è che ti riempi lo stomaco di altre fesserie. Poco c'è un buono con i piselli. Vabbè, i piselli, lo sai, non è... Io sono fabico, quindi non è che vanno d'accordo in teoria, ma comunque i piselli, ma già lo stesso non mi è mai successo niente. Fabici non sono per le fabbrici, non c'è cosa c'entra i piselli. Quanto sembra, ha detto che anche i piselli fanno parte di quella classe lì, quindi è meglio evitarli parecchie volte. Ah, ecco, vabbè, ho sentito anche che c'era Giulio, avanti Giulio, buonasera. No, sto lavorando. Oh, già, ciao, buonasera. Ma sto lavorando, sto facendo cose. Ancora ne ho preso un quarto d'ora, 20 minuti. Quindi vi sto ascoltando comunque, dai, mi fate compagnia mentre io lavoro, dai. Mi prendi. Fai tranquillo. Poi chi c'era? C'era le frequenze. C'era Quillo, poi c'era, come si chiama? Adesso mi ricordo il nome, la parte Lucca, ma di come c'era, non mi viene in mente il nome adesso, ma la memoria mi sta già dopendo i cosi, gli ormoni stanno uscendo. Quindi, va bene, adesso mi preparo e mi faccio una bella passeggiata a piedi, almeno sventi un po', e poi già rientro a casa. C'ero e a domani, diceva quello. Sì, io. Va bene, dai, bene, non c'è problema. Vai a farti questa passeggiata. Se è rimasto qualcuno per davanti. Non ve ne uno. Buongiorno. Tutti fuggiti, sì, io ho chiamato, non rispondeva nessuno. Io purtroppo stavo facendo una cosa e mi sono spostato e in più mi stavo misurando la glicemia che dopo fra due ore me la devo tornare a misurare, capito? Oggi sono tutto il giorno misurando. E non dirlo a me, quando ieri ce l'aveva 58. No, io due volte alla settimana me la devo misurare, così mi ha detto la dottoressa, e così faccio. Oppure si arrabbia. Quando non te la misuri, mangi qualche cosa che ti fa salire la glicemia, non te ne rendi manco conto. Ma a me non mi sembra una cosa giusta questa, perché se tu, per dire, il giorno che non te la misuri mangi la pizza, voglio vedere che altro dà. Sì, non ti credere che mi alzi molto a me. Ma cosa vuoi che ti dica? Ma non c'è niente. Per risparmiare strisce, una scatola solo me ne stanno dando da 25 al mese. Aghi non me ne stanno dando più perché me la faccio solo di notte. E come fai a fare la spasa? Con gli aghi che c'ho, che mi hanno dato già. Invece a me me le aumentate perché non mi bastavano, io me la prendo prima, dopo mangiato, tutte le volte. Ma io l'insulina me ne faccio una solo, poi prendo la pastiglia solo tutto il giorno, una pastiglia solo figlio, io. Se mi voleva togliere l'insulina nella notte per non darmi un altro farmaco, allora non me l'ha tolta, perché io ho avuto la pancreatite e ha detto me non ne prendo, il meglio è di medicina. Infatti, sì, va bene, a tarito, una forma leggera, è meglio così. Sì, infatti, cazzo, lei non ne ha bisogno, a chi ha visto che è sempre in regola la glicemia. Io ci sto attento a non farla salire più di tanto, capito? È più di me che io non mangio manco pasta, non mangio primo io. Solo la domenica qualche volta, non sempre, qualche volta la faccio. La domenica e poi non mangio primo, mangio il secondo, un'insalata, e quello che mangio che mi butti sono l'arancia. Ma la tua è più grave della mia. Non è una vita già, è diversa. È una vita già. Se no, io mi ne faccio 4 mesi di insulini, non attessi. Come ci mi danno a ciappa da asta, a ripidare. E io ne so che ci do, quando. Se poi c'è stata una. Quando mangiavo me la dovevo fare. E quindi me ne facevo 4 al giorno di insuline. Perché ne facevo 3 ai pasti e poi la notte, no? Ho capito. E prima tu ce l'avevi più grave della mia. Che ti sa di bombe. Ma io non ce l'ho grave perché la mia 135, 150. Quel tanto lì sale, non mai a 200, 230, 300 come se fosse certa gente che già sta uscita. qualche volta è successo, ma sono stato io che magari ho mangiato dolci ed era aspettarselo, dai. Quando esageremo vai frutta esatta. È normale, ma oramai, posso fare qualche cicci di squilla in più quando mangi dolci ed è a posto. Io no, io non...